Storie italiane. L'abete. Nel cuore della foresta c'era un piccolo abete. Aveva trovato un bel posticino, gratis e ben riparato. Il sole splendeva ed il vento soffiava. I suoi aghi si arruffarono tutti. Gli alberi che lo circondavano erano alti e forti. L'abete odiava essere guardato dall'alto in basso, abbastanza letteralmente. Oh, buongiorno piccolo! Guarda che bella giornata che sta arrivando! Arrivano anche gli uccelli! D'accordo, Bob, il cielo è limpido. Vedo già venire alcuni umani camminando verso di noi. È un giorno da picnic per loro. Oh, cosa c'è di così bello in questa mattina? E dove sono gli uccelli? Sono così piccolo. Non riesco nemmeno a vedere chi viene verso di noi. Vorrei essere più alto. Potrei vedere le case e tutto il mondo. Ehi, crescerai. Tutti cresciamo. Il tempo non si ferma per nessuno. Non si fermerà nemmeno quando lo desidererai. Quindi, goditi quello che hai adesso, perché non sarai mai più piccolo. L'unica cosa che mi sembra buona è che non rimarrò per sempre così piccolo. Non sai come ci si sente? Perché pensi che non siamo mai stati piccoli? Quando eravamo piccoli il sole poteva difficilmente raggiungerci. Ricordi, Bob, quando era fitta la foresta? Ma certo, potevo a malapena allungare i miei ramoscelli. Oh, i bei vecchi tempi! Giornata così bella! Guarda quell'albero! Cos'è questo marchio? Forse qualcuno vuole che questo albero lo ricordi. Oh, non sono sorpresa! È così piccolo e carino! È il bambino della foresta! Vedi come mi prendevano in giro chiamandomi bambino? Erano innocui, ti volevano bene. Ah, aia! Sciocco di un coniglio. Vedi? Anche quello era innocuo? Non si è nemmeno accorto che ero qui. Beh, se lui davvero non ti avesse notato, come avrebbe fatto a saltare su di te? Mi stai prendendo in giro solo perché sono piccolo. Giusto. Ecco perché è divertente. Non ha nulla a che fare con quanto sei carino. Ah! Lo odio! Odio! Odio! Odio! Odio! Oh, dillo di nuovo. Vuoi? Non penso di averti sentito chiaramente. Oh, basta, Marley. Smettila di farla arrabbiare. Ascolta, sii felice di ciò che hai. La deforestazione ha portato via molti dei nostri cari. De che? De cosa? Deforestazione. Ci sradicano. Significa che gli umani portano via gli alberi e le loro radici per liberare la terra. Quella terra viene quindi trasformata in fattorie e altre cose. Spaventoso. E lo è. Quindi? Devo crescere più in alto e più in fretta, giusto? Oh, questo è ciò che hai capito? Devi imparare ad essere felice di quello che hai, ragazzo. Ma il piccolo abete voleva crescere, crescere e crescere. Venne la primavera, l'estate e poi la neve. Gli anni successivi furono buoni per il piccolo. Nuovi rami crebbero su di lui, ma tuttavia era triste. Non si sentiva libero, perché voleva diventare più grande e più velocemente. Sì, esatto, coniglio. Vai, vai via. Diventerò più alto. Credimi, ti mancherà tutto questo un giorno. Proprio in quel momento arrivarono gli umani per fare ciò che meglio sapevano fare. Colpirono e colpirono e colpirono ancora con le asce. Tutti gli alberi giacevano a terra. I grandi alberi verdi furono ridotti a semplici ceppi. Oh, dove vi stanno portando? È giunta la nostra ora. Ricorda, sii felice di quello che hai. Ma cosa faranno a te? Ehi! Si sentiva così male, ora che aveva cominciato a preoccuparsi. Il dolore che provava per i suoi amici andati era davvero troppo da sopportare. Era tutto solo ora. Non c'erano più alberi con cui parlare. Il sole era sorto come sempre, il vento soffiava come sempre, eppure l'albero era triste. Vorrei poter andare da loro. Perché gli umani non mi hanno preso? Sono cresciuto ora. Cosa faccio da solo in questa foresta? Mesi passarono senza alcuna notizia dei suoi amici. L'albero divenne più solitario e infelice giorno dopo giorno. Ma poi, un giorno, arrivò una cicogna. Gli uccelli mi hanno detto che stavi cercando i tuoi amici. Forse li ho visti. Ora sono dei grandi alberi di grandi navi che navigano nel mare. Le navi viaggiano per il mondo. Cosa? Loro viaggiano? E io che ero preoccupato per loro. Perché gli umani non mi hanno preso? Voglio girare il mondo. Mi hanno detto che gli manca molto casa. Sciocchezze. Per quale motivo a qualcuno dovrebbe mancare questo posto noioso? Sono in mare. Eh? Cos'è il mare? Ci vorrebbe troppo tempo per spiegarlo. Non posso rimanere. Addio! No, aspetta! Cos'è successo agli altri alberi? Io lo so! Li ho visti in delle case enormi. Erano splendidi. Erano tutti decorati e luccicanti. Luccicanti? E poi? E poi? Dimmi, cosa succede dopo? Non lo sappiamo. Onestamente non li abbiamo mai visti dopo. Oh, sono sicuro che sono in un posto bellissimo, tutti belli e luccicanti. Ignaro del domani, ma aspettandolo con impazienza, l'albero aspettò. Aspettò e aspettò. Passò un altro anno e alla fine arrivò il giorno in cui l'albero lasciò la sua casa. Ah, gli esseri umani mi prenderanno sicuramente. Ah, fa più male di quanto pensassi. Ma andrà tutto bene ora. Avrò un futuro grande e luminoso. L'albero venne trasportato in una grande casa. Lì lo misero in un vaso e gli misero la sabbia intorno. E presto iniziò la decorazione e poi le luci. L'albero brillava come un gioiello. Come se non bastasse, gli misero una stella sulla cima. Era davvero perfetto. Sbrighiamoci, mettiamo subito i regali. Oh mio, quello sono io? Sono bellissimo. Mi chiedo cosa succederà dopo. Wow, quest'albero è così bello! Non ho mai visto niente di simile! Sì, ho dovuto cercare bene prima di scegliere questo. Hai sentito? Mi stavano cercando! Io sono speciale! I bambini ballarono intorno all'albero, saltarono di gioia. Poi si sedettero sotto di lui e chiesero al loro papà di raccontargli una storia. Va bene. Tombolo Dondolo sul muro sedeva. Tombolo Dondolo dal muro cadeva. C'era una volta un uovo grande come te. Ecco la storia conosciuta da tutti, ma non ancora da te. Ah, mattina! Mi chiedo cos'altro accadrà oggi. Più luccichii, altre storie, più balli? Ma nessuno venne. Le porte rimasero chiuse. Passò un po' di tempo. Il sole splendeva adesso. Eppure nessuno arrivò. No, non possono dimenticarmi. Sono l'albero più bello. Io sono speciale. Ah, Eccola che arriva! Lo sapevo! Cosa succederà? No! E te le stai portando via? Oh! Ai! Ai! Dove mi stai portando? Ai! Ai! Ai! Cosa? Questo è tutto? Cosa gli ho fatto per farmi mettere qui? Oh, aspetta, questo non può essere. Sta ancora nevicando. Il terreno è ancora duro. Forse mi pianteranno di nuovo quando la neve si scioglierà. Sono così premurosi. L'inverno passò. La neve si sciolse, ma l'albero era ancora lì, nell'angolo della soffitta. Oh, Bob aveva ragione. Mi manca la foresta. Mi mancano il sole e il vento. Se solo mi lasciassero stare all'aperto ancora. Mi manca l'aria fresca. Ciao, vecchio albero. Cosa ti fa pensare che io sia vecchio? Ci sono alberi più vecchi dove abitavo prima. Davvero? Da dove vieni? Ah, la foresta. La bellissima e meravigliosa foresta. Foresta? Non ci siamo mai stati. Dici tutto. L'albero era felice di fare due chiacchiere. Mentre raccontava la storia, altri topi vennero ad ascoltare. Parlò del sole e del vento. Parlò di Bob e di quanto gli mancava Marley con le sue risate allegre. Parlò di Susan e della sua saggezza. Parlò del coniglio e di come gli saltava sempre in testa. È strano, ma non sono più infastidito dal coniglio. Mi piacerebbe che lui saltasse su di me ancora e ancora. Oh oh! Dovevi essere così felice lì? Ah, io ero. Non riuscivo a capirlo. Ero impegnato a lamentarmi di tutte le cose che non avevo. I miei amici avevano ragione. Avrei dovuto godermi quel periodo fin quando durava. Questa è l'unica storia che sai. Ah, ho anche la storia di Dondolo Tombolo che ho sentito quando ero giovane e luccicante. E così raccontò loro di quando venne portato a casa e addobbato e di come brillava tutto. Poi raccontò la storia di Tombolo Dondolo, proprio come l'aveva sentita. Un uovo ha sposato la principessa? Davvero? E pensi che ci dovremmo credere? Non conosci la storia che racconta della pancetta delle candele? No, non l'ho mai sentita. Ah, me ne vado. E così tutti i topi se ne andarono. Ah, beh, è stato bello finché è durato. Oh, sto per essere piantato di nuovo? Per favore, portatemi all'aria aperta, proprio come nella foresta. Ma un futuro orrendo attendeva l'abete. Oh, oh, non di nuovo! Oh, oh, oh, perché fare così? Hanno le scale! Oh, oh. Aria fresca, sole, vento. Oh, non voglio niente di più. Non sono mai stato così felice in tutta la mia vita. È davvero così facile apprezzare ciò che abbiamo? Porta su quell'ultimo pezzo di legno. Bruciamolo! L'albero era ora felice della sua vita ed era pronto ad andare nel fuoco. Solo allora... No, aspettate! Questo è il mio albero! Cosa intendi con il tuo albero, nonno? Vedi questo marchio? Ho piantato quest'albero nella foresta quando ero piccolo come te e adesso. Gli alberi avevano iniziato a scomparire. Io ero spaventato. Sai che non avremmo aria fresca se non ci fossero alberi? Inoltre, se abbattiamo le foreste, non pioverà più. Niente pioggia? Allora cosa facciamo? Facciamo esattamente quello che feci allora. Andiamo nella foresta e piantiamo più alberi. Dobbiamo apprezzare e rispettare ciò che abbiamo, bambini. Altrimenti verrà un giorno in cui non ci sarà la foresta, né aria fresca e non pioverà più. Questo è un pensiero splendido. Cosa vuoi che faccia con questo albero? So cosa farne. Io so esattamente cosa vuole. E lo sapeva. L'abete fu trasformato in una porta di legno per la casa del vecchio. Amava dare il benvenuto al suo umano. Lo salutava ogni volta che tornava a casa. Accoglieva il sole ogni mattina e sorrideva vivacemente al vento. Parlava con gli uccelli e si sedevano in veranda. Cantava con le rondini. L'albero era felice di quello che aveva. Ed era felicissimo della vista spettacolare. Il vecchio e i bambini avevano fatto un lavoro fantastico piantando più alberi. La foresta era ora più verde che mai. L'albero aveva imparato la sua lezione. E così anche gli umani.